Radio 24 Reportage. Metop B, satelliti nell'occhio del ciclone, di Gigi Donelli. Metop significa Meteorological Operational Satellite, cioè satellite meteorologico operativo. Satellite meteorologico è facilissimo da capire. Operativo significa che deve garantire un servizio alla massima affidabilità, è un po' come il frigorifero di casa, insomma, non si deve guastare mai, ci si deve quasi dimenticare di lui, deve svolgere la sua funzione senza mai fermarsi. Non è una missione scientifica in cui si va a studiare una cosa nuova, questo deve funzionare perché molti organismi meteorologici e istituti di ricerca contano sui dati di Metop per le previsioni del tempo. Enrico Corpaccioli, 51 anni, toscano, ingegnere. È un costruttore di satellite meteo, lavora per l'Agenzia Spaziale Europea ed è, come molti suoi colleghi, uno di quei veri e propri custodi dell'osservazione del tempo, già perché oggi i satelliti rappresentano il nostro sguardo sui grandi sistemi meteorologici che, per la maggior parte del tempo, navigano sugli oceani. Ma a volte si scaricano sulle nostre città. It seemed like the water was everywhere, but then another problem popped up, and that was a major fire. Con Sandy è accaduto esattamente questo: un uragano, un percorso, una variazione, l'energia, soprattutto l'energia che si scatena sui luoghi abitati dall'uomo. E quando i luoghi hanno nomi importanti come la città di New York, beh, i risultati sono davvero enormi. 45 miliardi di dollari la stima dei danni, 10 miliardi di dollari direttamente nell'impatto solo sui piccoli esercenti cui l'uragano ha distrutto il negozio e che non potevano permettersi l'assicurazione contro i disastri, 8 milioni di persone senza elettricità negli Stati Uniti, il blackout che ha colpito la costa atlantica ha coinvolto 15 stati, 80 almeno le case bruciate in qualche modo dall'acqua, l'acqua che ha provocato i cortocircuiti a ripetizione e innescato incendi, soprattutto nel Queens. Il sistema di osservazione satellitare è dunque una rete mondiale. In Europa ha un nome che risponde a quello di EUMETSAT. Ne abbiamo parlato in occasione del lancio dell'ultimo dei satelliti della famiglia europea, Metop B, con il direttore finanziario di EUMETSAT, Angelo Rolli. In sostanza EUMETSAT fornisce osservazioni dai satelliti che sono un elemento essenziale per le previsioni numeriche, in particolare del tempo. Quindi non facciamo previsioni del tempo, ma forniamo un input che è essenziale al giorno d'oggi. EUMETSAT vuol dire quante persone raccolte dove? Una rete europea, suppongo. Allora, EUMETSAT come struttura centrale è posizionata qui a Darmstadt, vicino a Francoforte, e ha circa 500 impiegati. Siamo al centro di una rete formata dai servizi meteorologici nazionali che contribuiscono anche con le loro esperienze e le loro necessità ai nostri programmi. Nessun paese europeo ha satelliti meteorologici propri, perché la spesa sarebbe eccessiva anche per i paesi più grandi. Quindi EUMETSAT, la ragione di esistenza di EUMETSAT è proprio di mettere insieme conoscenze e risorse dei vari paesi europei per poter realizzare satelliti meteorologici che sono all'avanguardia nel mondo, sono tra i migliori del mondo. Se non sbaglio, proprio 25 anni fa il primo satellite meteorologico europeo. E funziona molto bene, insomma, certo anche noi sentiamo i risultati di questa crisi economica, è ovvio, però quello che abbiamo la possibilità di dimostrare che i satelliti meteorologici danno un beneficio anche economico molto elevato. Abbiamo dimostrato che circa il ritorno economico di satelliti meteorologici è circa il 20 volte l'investimento fatto, quindi è una spesa che rende. I satelliti costano, lei dice che rendono 20 volte, allora mi dia qualche numero. L'abbiamo fatto degli studi che dimostrano che il ritorno per un investimento come quello di EUMETSAT, di satelliti meteorologici polari, che è di circa 3 miliardi di euro, fornisce un ritorno di circa 60 miliardi nell'arco della vita di questi satelliti. Quindi è un ritorno di 20 volte che tutto sommato non è male di questi tempi. 60 miliardi che arrivano da dove? Dai benefici diretti e indiretti che derivano dalle previsioni del tempo, quindi la possibilità di mitigare i danni causati dal maltempo, la possibilità di utilizzare utilizzare questi dati per attività economica, pensiamo a molti settori economici, non ultimo l'energia per esempio, e l'utilizzazione di questi dati e le previsioni del tempo fatti con questi dati dando questi benefici economici. Secondo di una serie di 3 satelliti, Medo-B è stato lanciato poche settimane fa dal poligono russo in territorio kazako di Baikonur. Lanciato naturalmente per conto dell'Agenzia Spaziale Europea, che gli ha affidato un compito da un lato di aumentare i dati disponibili, ma soprattutto di assicurare la continuità delle informazioni, come ci spiega Simone Tacheli dell'Agenzia Spaziale Europea. Secondo, come dici, di una serie importantissimo, perché i satelliti sono 3, METOP, il primo lanciato nel 2006, il secondo ora, il terzo previsto, METOP-C, nel 2017, è importante nel settore della meteorologia come in quello del clima e in settori ambientali garantire continuità di dati su lunghi periodi con dati dello stesso tipo di qualità e dello stesso tipo di provenienza e dati su tematiche e su attività costanti. In questo caso si studia l'atmosfera, con METOP si ha un avanzamento in termini di qualità dei dati, in termini di rapidità dei dati, in termini di copertura, fatti dopo 2 ore dall'acquisizione dei dati, questi dati sono già disponibili agli utenti, quindi importante da una parte garantire una continuità in termini di serie di satelliti, per questo un METOP 2 e poi ci sarà un METOP C, e d'altra parte fondamentale anche dare questi flussi di dati in tempi rapidi agli utenti che li usano. Affidabile come un frigorifero, ha detto in apertura l'ingegner Corpaccioli, come qualcosa che, a patto di non dimenticarsi di inserire la spina, deve funzionare autonomamente per anni. Il patto implicito che facciamo con i nostri elettrodomestici è quello che oggi facciamo con una cosa che chiamiamo satellite, per comodità, ma che di fatto è un'infrastruttura metallica di 17 x 6 x 5 metri, imbottita di 11 strumenti mai o poco sperimentati nel loro ambiente operativo. Ma 2 satelliti europei sono sufficienti a tenere d'occhio il pianeta? No, il vantaggio di questi satelliti meteorologici è che sono su un'orbita polare, cioè se immagini la Terra che ruota, no? Come un'arancia in orizzontale, questo fa un'orbita che tocca i poli, quindi un'orbita in verticale. E quindi se combini 2 movimenti insieme si spazzola tutta la Terra e la si vede più o meno bene in ogni condizione. Ci sono anche altri satelliti meteorologici, quelli più famosi forse i Meteosat nostri, no? In orbita geostazionaria, cioè come se fossero su un palo alto 36.000 chilometri, e che guardano la Terra ma in maniera fissa, cioè sempre nello stesso modo. Questi ruotando in questo modo te la spassano tutta. Uno è sufficiente. In realtà METOP-B è nato perché METOP-A aveva già 5 anni di vita e quindi i satelliti, se vogliamo essere sicuri che funzionino bene, non si può farli lavorare tantissimo. Le probabilità di guasto aumentano e a un certo punto si decide di cambiarli. In realtà, siccome funzionavano ancora bene METOP-A, è stato deciso di utilizzarlo insieme e quindi questo aumenta la risoluzione, la quantità di dati, l'accuratezza delle informazioni. Ridurre le finestre di osservazione è un po' come passare dal cinema a scatti dei fratelli Lumière all'alta definizione. Per farlo, visto che i satelliti costano caro, Europa e Stati Uniti collaborano, si scambiano dati. La famiglia dei METOP si organizza con quella americana del NOAA, dove il satellite americano passa all'alba, l'europeo arriva al tramonto. Ci si organizza, insomma, perché il tempo non è solo denaro, ma a volte anche vita. 135 minuti sono oggi il tempo minimo indispensabile perché ciò che il satellite vede e misura dalla sua orbita, magari un uragano, possa diventare un'informazione sul tavolo del capo della protezione civile. Il presidente degli Stati Uniti in passato era stato criticato per avere sopravvalutato un'allerta meteo su New York. Ma dopo il passaggio di Sandy, l'allerta che domenica sera ha chiuso preventivamente le 468 stazioni della metropolitana newyorkese sarà ricordata come una decisione che ha salvato molte persone. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo.